Letture di Radio 24. Da anni la TV di sinistra utilizza il suo potere per condurre una campagna mediatica contro Berlusconi, il quale però, scrive Pierluigi Battista sul Corriere, sbaglia quando le attribuisce le colpe per le sue sconfitte elettorali, dato che in questo modo fa lo stesso errore che da 15 anni sta facendo la sinistra. La furia ossessiva che ispira la crociata di Berlusconi contro Santoro si spiega con la paradossale sconfitta che il grande demiurgo della televisione ha subito, nel corso di oltre un quindicennio, nell'infinito duello con la TV di sinistra. Lui, l'imprenditore del piccolo schermo, il tycoon che seppe affrancare la televisione dal conformismo della Rai monopolista e partitocratica, l'irruzione del nuovo che mostrò impietosamente a tutti le ragnatele in cui era imprigionata la comunicazione della vecchia politica, proprio lui, battuto da un pugno di conduttori che in questa seconda repubblica ha fatto della guerra santa contro il Caimano un format di straordinario successo. La TV di sinistra mobilita e, come si dice, detta l'agenda, crea l'evento mediatico che dalla televisione atterra nella politica e viceversa. I conduttori di sinistra appaiono imbattibili nella drammaturgia manichea, nella teatralizzazione del grande scontro. Hanno un seguito, un pubblico di devoti, padroneggiano l'audience, attizzano un senso di battaglia, hanno un intuito formidabile, questo sì davvero populista, nel cogliere l'occasione per dare vita ogni settimana alla rappresentazione del bene in lotta con un pugno di malvagi. Hanno dalla loro la satira e il comico, ma maneggiano con maestria il registro del tragico, l'alto e il basso, lo sberleffo e l'indignazione, filmati ad altissima intensità drammatica e cazzeggio sul divano, dove si esibisce la galleria dei piccoli e grandi mostri sacri, folle dolenti e requisitorie, monologhi deliranti e sobrietà salottiera. Confrontateli alla media dei conduttori di parte avversa, così legnosi, ripetitivi, imbarazzanti. Gli ultimi arrivati si esibiscono nella superfaziosità minoritaria e rancorosa, ma i più avveduti si sono messi a parlare d'altro e si buttano senza requie nella cronacaccia nera, come se il mondo fosse traslocato in permanenza ad Avetrana o in un plastico di Cogne. Da qui il sordo risentimento di chi ha inventato la televisione e l'ha mescolata al messaggio politico e adesso, dalla televisione nemica, viene regolarmente surclassato. Il tentativo di Berlusconi di addossare la colpa delle sue recenti catastrofiche sconfitte elettorali alla malvagia TV di sinistra è pateticamente speculare a quella sinistra che in questi 15 anni si è autoassolta per la sequenza di sconfitte elettorali attribuite alla superpotenza televisiva del nemico. Ora la bravura del talk show di sinistra sta diventando un incubo per Berlusconi. Sta perdendo in casa. E questo lo destabilizza, spingendolo a parossismi censori sempre più incontrollati. Ne potrebbe confortarlo la constatazione che, se si eccettua il Fatto Quotidiano, nella Seconda Repubblica le novità giornalistiche più rilevanti nella carta stampata, dal giornalismo di Feltri a quello di Ferrara, hanno visto la luce nel centrodestra. Un altro paradosso. Troppo poco per poter consolare un re della TV battuto dalla TV. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierluigi Battista, L'imperatore TV davanti ai format nemici, dal Corriere della Sera del 13 giugno. Letture di Radio 24. Si chiama planking e consiste nel mettersi distesi a pancia in giù in posizioni pericolose per poi farsi fotografare. È la nuova moda stupida dell'estate e ha già fatto la prima vittima. Lunghi distesi, a pancia in giù, con le braccia vicine al corpo, in posizioni pericolose, assurde e surreali, accompagnati da un complice che li immortala. La moda del planking, letteralmente fare la tavola, arriva dall'Australia e sta spopolando su Facebook, dove gli utenti postano le foto delle loro prodezze. Un divertimento che 2 settimane fa è costato la vita ad Acton Billy, 20 anni. Dopo una serata fuori con gli amici, questo ragazzo di Brisbane, nel Queensland, decide di chiudere in bellezza la nottata e si stende sulla ringhiera del balcone per farsi immortalare. Ma il gioco finisce male, perché Acton cade nel vuoto dal 7° piano. Poche ore dopo, sempre a Brisbane, viene arrestato un ventenne che si era sdraiato sul tetto di un'auto della polizia. Una piaga, insomma, che sta colpendo la terra dei canguri e che ha costretto persino il primo ministro, Julia Gillard, e il leader dell'opposizione a invitare alla prudenza. L'appello è però caduto nel vuoto. Un giovane di Sydney è entrato in coma dopo essere caduto del tetto di un'auto in movimento e varie scuole del paese hanno dovuto sanzionare con richiami e sospensioni gli studenti impegnati in vere e proprie gare. E ancora, 8 dipendenti della catena di supermercati Woolworth sono stati licenziati per essersi cimentati distendendosi su scaffali tra pile di cassette del latte. A lanciare la moda è stato il giocatore di rugby David Wolfman Williams, che durante una partita aveva fatto la panca per festeggiare una meta, suscitando la curiosità dei media. Da lì l'effetto imitatorio è stato incontenibile, aumentato in maniera esponenziale dalle macchine digitali, dai social network e dai video su YouTube. Ora però la pancamania si sta estendendo anche al resto del mondo e all'Europa. Su Facebook, infatti, si trovano anche pagine irlandesi e norvegesi, lontane dalle 250.000 preferenze di quella australiana, ma in continua crescita. E il gioco pare essere arrivato anche a Milano. Due ragazze sono state avvistate in piazza Cadorna, una a pancia in giù sul bordo della fontana, l'altra intenta a immortalarla con i passanti che li osservavano divertiti. Alberi, strade, ferrovie, statue, persino il trono di Saddam in Iraq. L'obiettivo è sdraiarsi in posti assurdi e magari pericolosi per stupire gli amici con le immagini dell'impresa. Lo slogan è semplice: You got a body, you got a plank. E altrettanto semplice è metterlo in atto. Il fenomeno non piace solo ai ragazzini, ma anche agli adulti. Durante la giornata mondiale del planking, già ne esiste una, persino i commessi di un Apple Store si sono messi a pancia in giù tra iPad, iPhone e computer. Ricorda il balconing, la mania di buttarsi giù dai balconi dentro le piscine o su altri balconi, spiega la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Interessante la componente psicologica che spinge un adolescente a un gesto così stupido. Nella prepubertà i ragazzi resettano il loro cervello e dimenticano tutto quello che hanno imparato. Così sperimentano nuovi comportamenti e nuove sfide. Simbolica la scelta della posizione orizzontale. Cercano un punto di gravità permanente in un mondo dove tutto è squilibrato e precario. Ma vogliono anche dimostrare che possono farsi beffe della natura. Non sempre, però, il gioco riesce. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marta Serafini «E tu, planchi?» dal numero di giovedì 9 giugno del settimanale 7.